Punto e a capo. Una settimana di attualità. Buona giornata da Simone Spezia, punto e a capo, l'approfondimento di alcune delle notizie di questa settimana, una settimana intensa che si è aperta col drammatico attentato di Brindisi davanti ad una scuola superiore, la morte di una ragazza, e nemmeno 24 ore dopo il terremoto che ha colpito l'Emilia uccidendo 7 persone. Secondo una prima stima si parla di 200 aziende colpite, danni per almeno 500 milioni di euro. Poi i risultati dei ballottaggi in alcune città dove si è votato per le amministrative, l'affermazione del PD, il crollo del PDL della Lega, ma come sapete la novità è stato il Movimento 5 Stelle di Grillo che ha raccolto molti consensi e ha conquistato anche il comune di Parma. Ma iniziamo dal terremoto. Poco dopo le 4 di domenica mattina, una violenta scossa di 5.9 gradi sulla scala Richter colpisce l'Emilia, una scossa che è stata sentita in tutta la pianura padana. Ecco le testimonianze raccolte il giorno dopo da Irene Privitera a Ferrara. Siamo stati qui in piazza perché avevamo un po' paura a stare dentro. L'idea... Quindi è tutto il giorno che siete fuori in pratica? Sì. Dal primo terremoto che c'era alle 3 più o meno. Siamo usciti e tutto il giorno di qua per la strada. Siamo all'interno del bar La Corte, il pieno centro storico di Ferrara, e diciamo che gli avventori sono un po' pochini stasera. Assolutamente sì, perché comunque con quello che c'è stato, insomma, c'è stato un po' di allarmismo ed effettivamente da oggi pomeriggio che di gente se ne vede poca in giro, a parte questa mattina che comunque erano tutti fuori. Molta paura. Molta paura. Cioè, noi tutti i nostri clienti oggi che sono venuti, tutti passati una paura, è stata veramente una cosa grossa. La terra ha fatto rumore, è stata una cosa impressionante. Punto e a capo. E dunque, riprendiamo a parlare del terremoto in Emilia. La situazione a finale Emilia nelle parole del sindaco Fernando Ferioli, intervistato da Paolo Panceri. Siamo stati devastati, cioè siamo stati bombardati purtroppo e noi abbiamo perso praticamente tutto il nostro patrimonio storico. Cioè in particolare cosa? Ah, tutte le chiese sono danneggiate, chi più chi meno. Tutti i campanili sono venuti giù o sono pesantemente danneggiati, tutti. Il municipio è inagibile, è del 1700, poi abbiamo una serie di palazzi medievali rinascimentali, poi la cosa... proprio i due simboli di finale, il castello delle Rocche del 1400 e la torre dei Modenesi del 1200 sono venuti giù. Ecco, ovviamente non si può ancora fare una stima dei danni che sono comunque ingentissimi. Sono spaventosi, abbiamo tutto il centro storico, quello proprio il più vecchio, antico, storico, dove, quello dentro le mura, diciamo, è stato devastato. Molti sfollati, 7 vittime, come si diceva, ma anche... moltissimi danni ai beni culturali. Irene Privitera ha intervistato Massimo Maisto, vice sindaco di Ferrara con delega al turismo. I danni maggiori sono stati soprattutto piccoli crolli, però potenzialmente pericolosi, di cornicioni, di statue, soprattutto nelle chiese, negli edifici più storici, nei palazzi monumentali, e poi questa torretta del Castello Estense che è stata fotografata in tutta Italia, in realtà è più simbolico che in sé, perché il castello ha retto molto bene, però è chiaro che è la cosa che colpisce di più, perché il castello è il centro della città. Abbiamo i vigili del fuoco, hanno già messo in sicurezza i camini, sono crollati tanti camini e cose di questo tipo, sono già in sicurezza. Adesso chiaramente noi dobbiamo andare a vedere all'interno di ogni edificio monumentale, di ogni museo, per vedere se ci sono le condizioni di agibilità o meno, e qua chiaramente dipenderà dagli ingegneri, da chi ha titolo per dirlo, però all'interno al momento non stiamo vedendo danni enormi, ecco, non abbiamo, per essere chiari, io mi sento di tranquillizzare tutti gli appassionati, non c'è nessun danno a nessuna opera d'arte, né in Pinacoteca, né agli affreschi famosi del Salone dei Mesi di Schifanoia, ai quadri del Boldini di Palazzo Massari, quindi adesso la valutazione è sull'accessibilità del pubblico, però opere d'arte non ci sono state lesioni o problemi. Un terremoto di magnitudo superiore a 5.4 era atteso tra il 1 marzo e il 1 settembre 2012 con epicentro Ferrara e Parma. Questa è la stima dei sismologi dell'Università di Trieste e del Centro di Fisica Teorica di Miramare, che nel 98 hanno avviato uno studio per prevedere i terremoti, anche se non con precisione. Al microfono di Katia Caramelli, Giuliano Panza, professore di sismologia. Il nostro progetto è cominciato circa 20 anni fa. Gli obiettivi sono quelli di riuscire a dare delle indicazioni riproducibili, statisticamente significative, sulla possibilità di prevedere i terremoti, ma con bassa precisione. Cioè, il messaggio che noi vogliamo mandare è che bisogna passare dall'affermazione tout court, i terremoti non si possono prevedere, a un'affermazione leggermente più articolata dicendo che i terremoti non si possono prevedere con precisione. Non si arriverà, penso mai, oggi sicuramente no, ma penso che anche in futuro sia molto difficile poter arrivare alle condizioni di allarme rosso, ovvero evacuazioni e cose di questo tipo. Questo non penso sarà mai possibile, però mi posso sbagliare. Esiste una serie di misure che possono essere fatte, è un elenco, non è che possiamo adesso dirne qualcuna, perché quell'elenco è un elenco che ha senso in quanto fatto sequenzialmente secondo certe regole. Noi diamo una serie di indicazioni, poi chi deve fare le cose deciderà se sono accettabili, non accettabili, implementabili. Nel caso specifico, voi che cosa avevate previsto? Era stata allarmata una zona grande per un tempo di circa un anno, il 1 marzo. Punto e a capo. Brindisi, sabato mattina, all'ingresso della scuola Morvillo Falcone le ragazze sono in attesa di entrare. Scoppia un ordigno, è il panico. Una ragazza, Melissa, rimane uccisa. Altre ferite. Sentiamo le testimonianze di alcune persone che vivono in zona al microfono del nostro inviato Vincenzo Miglietta. Le palazzine hanno tremato come un terremoto forte, quindi nessuno. Mio marito ha pensato a una bombola in una casa, sinceramente. Ha detto una bombola e stava insistendo per far uscire subito i bambini. Casomai dovevamo scappare dalla palazzina. E invece io guardando fuori, vedendo le reazioni delle ragazze già entrate di là, ho visto che si giravano da questa parte e guardavano che stava succedendo qualcosa proprio qua. Ho capito immediatamente, ho detto, è una bomba, no? Una bombola. Che poi fossero le bombole, vabbè, però era una bomba in tutto, no? E quindi ci siamo, tutti siamo scappati per casa, hanno cercato di spostare qualche macchina che era in zona subito. Però già era accaduto tutto. Lei se lo ricorda questo cassonetto che stava da una parte e poi dall'altra? No, non ci stava. Allora, i cassonetti sono quelli. Sono sempre stati quei tre che stanno là dove io vado pure per buttare le cose. Questo cassonetto blu da questa parte, no, mai visto. Non poteva mai immaginare che qui Brindisi, una città tranquilla, accadesse? Sì, tranquilla. Infatti questo è molto strano, molto strano. Spero si risolva presto questa cosa. Ecco, ma voi a che abitate qui? Avete un'idea? È una zona molto tranquilla, non abbiamo idea di nulla. Siamo stati svegliati la mattina con quello che è successo, ma non potevamo mai immaginare davanti a una scuola poi, assolutamente. Paura no, paura magari per i bambini, ma credo che adesso le cose siano un po' più calme. Penso che sia finito adesso. E Vincenzo Miglietta ha anche intervistato il giorno dopo l'attentato il preside dell'istituto professionale Morvillo Falcone di Brindisi, Angelo Rampino. Pensiero per Melissa, che era una splendida ragazza, una bella ragazza, una ragazza volenterosa che voleva studiare. E non lo dico tanto per dire, lo dico perché è vero. Cosa ha provato, cosa ha pensato dentro di sé alle 7.45 di ieri mattina? Guardi, ieri mattina io alle 7.40, quando ho sentito l'esplosione, ero per arrivare a scuola. E quindi, ma non pensavo comunque che potessero colpire la scuola, la mia scuola. Poi sono arrivato a scuola e ho visto questa tragedia. Quello che ho visto è spaventoso, è come dire l'inferno. Ce lo racconti un attimo, so che è difficile. Guardi, è stata un'esplosione violenta, io l'ho sentita a 3 chilometri di distanza, per cui arrivando sul posto, vedendo tutto quello che si poteva vedere, ho capito che è stato un atto di gravissima portata, di grande portata. Non è stata una cosa così molto semplice, anche perché io penso che l'esplosione è stata causata, comandata da un telecomando. E quindi, come potete immaginare, l'attentatore era sul posto, quindi ha visto tutto e ha visto la tragedia che lui stesso ha determinato. E poi ci sono le indagini che all'inizio si sono concentrate sull'ipotesi di un attentato mafioso. Poi le cose sono cambiate. Il nostro inviato a Brindisi, sempre Vincenzo Miglietta, dunque ha intervistato domenica il procuratore capo di Brindisi, Marco Di Napoli. Procuratore, facciamo il punto sulle indagini. Noi abbiamo contestato un reato di strage. Articolo 422 del codice penale, un reato punito con l'ergastolo perché è morta una persona.

sia della 'Ndrangheta che della Camorra. Ci sono stati spesso dei punti di contatto tra la Sardegna Unita e la 'Ndrangheta calabrese, soprattutto nell'interscambio di droga e armi. In strutture di questo genere così radicate sul territorio possono esserci delle schegge impazzite? Certo, le schegge impazzite ci possono essere dappertutto, però di solito quando c'è un'organizzazione criminale seria, strutturata, se c'è un pazzo il giorno dopo lo troveremo a terra, lo troveremo stesso a terra, 2 giorni dopo massimo. Una mafia organizzata non si può permettere il lusso di avere una scheggia impazzita nell'organizzazione o in giro. Quanto possono essere ancora, tra virgolette, vantaggiosi per le strutture criminali atti eclatanti? Io conosco molto bene la 'Ndrangheta, soprattutto l'elite della 'Ndrangheta. L'elite della 'Ndrangheta ha sempre insegnato che non conviene avere scontri con lo Stato. L'elite della 'Ndrangheta, ad esempio, ha sempre trovato accordi con uomini delle istituzioni. Non ha mai pensato o voluto lo scontro. Punto e a capo. E come dicevamo in apertura, questa è stata anche la settimana dei ballottaggi in alcuni comuni. Si è votato domenica e lunedì. Primo dato da sottolineare: la scarsa affluenza alle urne. Dal lato di come sono andate le cose politicamente, il centro-sinistra vince in 14 capoluoghi su 26, il PDL in calo si afferma solo in 6 comuni, la Lega in piena crisi anche per gli scandali perde tutti i ballottaggi, tranne uno. Complessivamente al PD vanno 93 comuni, al PDL 34, ma il simbolo di questo voto è sicuramente l'affermazione del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. A Parma conquista la poltrona di sindaco con Federico Pizzarotti, ha ottenuto il 60% dei consensi contro il 40% di Vincenzo Bernazzoli, candidato del centro-sinistra. Il centro-sinistra vince a Genova con Marco Doria, all'Aquila conferma per Massimo Cialente, a Palermo eletto Leo Luca Orlando e battuto Ferrandelli, vincitore delle primarie del centro-sinistra. Il segretario del PD Pierluigi Bersani rivendica il successo del centro-sinistra e minimizza la sconfitta di Parma, depennandola come una non vittoria perché, spiega, perdere dopo 15 anni di governo è stata la destra. Questo è il risultato dei ballottaggi, 177 comuni al voto sopra i 15.000 abitanti, 92 vinti dal centro-sinistra, questi 92 erano l'altra volta 45, questi sono i fatti e quindi noi senza se e senza ma abbiamo vinto le elezioni amministrative dell'anno 2012. Capisco il simpatico tentativo anche in queste ore di rubarci la vittoria, ma non sarà consentito. Dopo la debacle, il segretario del PDL Angelino Alfano dà la colpa all'astensionismo e promette di riportare gli elettori del centrodestra alle urne. Da questi ballottaggi arriva un messaggio forte e chiaro. Tantissimi italiani, in tante città, addirittura la maggioranza, non si sono recati a votare. Questo messaggio forte e chiaro significa due cose. La prima è che hanno scelto di non votare sinistra. La seconda è che si tratta di elettori moderati che chiedono, pretendono una nuova offerta politica. Noi siamo pronti a dargliela e ci impegneremo con tutte le nostre forze per fare sì che questi elettori trovino buoni argomenti per tornare al voto. E ora il ritratto di Federico Pizzarotti del Movimento 5 Stelle, nuovo sindaco di Parma. Dal primo giorno sarò al vostro servizio e cercate anche di essere voi al mio. 39 anni, sposato, cultore di arti marziali, free climbing e corsa, appassionato di teatro, non inizia la giornata senza un buon caffè, è goloso di torta fritta Lambrusco. Il libro della sua vita è Il gabbiano Jonathan Livingston, il film del cuore è Matrix. Lavora come project manager in una banca. Con queste credenziali, nuovo sindaco Federico Pizzarotti si presenta ai parmigiani. Prototipo dell'uomo normale, sconosciuto a tutti fino a qualche settimana fa, è partito verso la conquista delle stanze del potere e ha portato il Movimento 5 Stelle di Grillo per la prima volta al governo di una grande città. L'interesse per la politica arriva nel 2009, proprio con Grillo. Fin da piccolo ha raccontato: ho sempre voluto cambiare il mondo e finalmente ho capito da dove iniziare. Con il suo programma di 66 pagine, Pizzarotti ha conquistato il voto dei parmigiani, annichiliti dagli scandali in comune. E tra gli obiettivi principali, il neosindaco indica riduzione degli sprechi, riorganizzazione dell'amministrazione e un'attenzione particolare per ambiente e cultura. E ancora vuole trasparenza, tagli dei rimborsi e promette di non costruire l'inceneritore, punto chiave questo della sua campagna elettorale. E Grillo? Ancora non l'ho sentito, ha raccontato Pizzarotti, ma ora credo, ha aggiunto, che ci sentiremo spesso. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Mercoledì 23 maggio, l'anniversario della morte del giudice Falcone. L'attentato avvenne esattamente 20 anni fa. A 24 mattino parla Giuseppe Costanza, per 8 anni autista di Falcone. Costanza è l'unico sopravvissuto dell'attentato, ma paradossalmente è stato abbandonato dallo Stato, quello Stato per cui lavorava. La sua colpa è quella di essere sopravvissuto, appunto, e per questo spesso non viene neppure citato tra le vittime di Capaci. Sentiamolo nell'intervista di Alessandro Milan. In Italia si vive di morti, purtroppo, mi dispiace dirlo, giusto ricordarli, per carità, hanno dato la vita per servire lo Stato, ma chi rimane vivo che colpa ne ha? Cioè mi hanno fatto pesare questa mia sopravvivenza, perché io ero escluso da tutto e sono escluso da tutti, attenzione, perché tutt'oggi io a distanza di 20 anni non ho mai avuto questo ricordo, farmi la presentazione di chi si è immolata eroe, non so per quale titolo e a quale fine, invece di stringersi accanto i sopravvissuti che hanno vissuto quel tragico, e non soltanto quel tragico momento, perché io lo seguivo dall'84 al 92, e invece si tenta di emarginare, di non mettere accanto a sé e dare un aiuto anche morale, perché io non ho trovato questo aiuto morale, anzi hanno cercato di mettermi, di accantonare. Questo è un punto molto interessante, Giuseppe, tra poco ci arriveremo. Intanto vorrei capire questo: 8 anni sei stato l'autista di Giovanni Falcone. 8 anni e ne ho visti tante, sa? Non è che ne ho visti una sola. In 8 anni, guarda che ho vissuto il pericolo, io avevo una guerra in casa e una guerra fuori, non vivevo sereno, perché a casa mia giustamente vedevano il pericolo a cui andavi incontro, perché si usciva la mattina e non si sapeva se la sera si rientrava, e una guerra fuori, perché vivere con l'attenzione, con il problema che qualsiasi momento si potesse saltare in aria, non era certo bello. Voglio ricordare anche il fallito attentato all'Addaura, dove io ero presente. Non c'era qualcun altro che oggi salta sui palcoscenici, io ero lì, io sono stato a Capaci, io c'ero a Capaci, io c'ero all'Addaura, io c'ero nei momenti in cui si correva il pericolo. E se io morivo anche i miei familiari ne avrebbero, come ne hanno subito, un danno, perché chi rimane vivo, guardate, io sono morto a Capaci, io sono vivo fuori, ma io dentro sono morto a Capaci. Punto e a capo. Altro tema in primo piano: la fecondazione eterologa chiamata a pronunciarsi martedì, la Consulta non ha bocciato la legge. La Consulta non ha detto né sì né no. In sostanza rimane tutto come prima. Il ricorso contro la legge 40 dei tribunali di Milano, Firenze e Catania non è stato preso in considerazione nel merito, perché nel frattempo la giurisprudenza è cambiata. Andiamo con ordine. Nel 2000 due coppie austriache si erano appellate alla Corte europea contro la legge del loro paese, che proibisce la fecondazione eterologa in vitro. Strasburgo 2 anni fa aveva dato loro ragione. A quel punto alcuni tribunali italiani avevano fatto ricorso alla Consulta. Anche la legge italiana, infatti, prevede lo stesso divieto. Nel frattempo, però, la sentenza è stata ribaltata dalla Grande Camera della Corte europea, che ha dato ragione ad Austria e Italia, affermando che il divieto di fecondazione eterologa non è in contraddizione con la Carta dei diritti dell'uomo. Nella sentenza di ieri, quindi, la Consulta ha invitato i 3 tribunali italiani a valutare quest'ultima sentenza ed eventualmente a formulare un nuovo ricorso. L'impressione è che la battaglia legale sulla legge 40 non sia ancora finita. Lucio Bondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stato impiantato a Roma il più piccolo cuore artificiale al mondo, soli 11 grammi. C'era a Roma un bambino di poco più di un anno. Era molto malato per via dell'infezione del cuore artificiale che aveva nel petto. Aveva una sola speranza, il minuscolo prototipo di cuore artificiale di soli 11 grammi che stavano sperimentando negli Stati Uniti. All'ospedale pediatrico Bambin Gesù lo sapevano bene, ricorda Antonio Amodeo, responsabile unità di progetto assistenza meccanica. Noi che sono anni che collaboriamo con la Jarvik, che è l'industria produttrice, e abbiamo sviluppato diversi cuori artificiali, non avevamo alternativa, era l'unica opzione possibile. Era l'unica possibilità, ma era difficile da realizzare. Il cuoricino non aveva ancora compiuto tutti i test sperimentali richiesti dalla Food and Drug Administration. Allora hanno terminato la sperimentazione su banco, poi su quell'animale, e il loro protocollo richiede diversi anni prima di andare sulla sperimentazione clinica. E poi era comunque un cuore un po' segreto. I prototipi all'interno dei programmi di ricerca dell'Istituto Nazionale Americano non possono uscire dagli Stati Uniti. Ma per la vita di quel bambino bisognava tentare. Quindi da Roma è partita una richiesta di quelle che si dicono compassionevoli. E siccome hanno un cuore anche gli americani, al cuore prototipo sono stati concessi visto e passaporto. E in men che non si dica, si è trovato nel corpicino del piccolo italiano. Dopo 13 giorni l'infezione era guarita e al bambino è arrivato un gran dono, un cuore vero questa volta. Ma a ben vedere, anche quello artificiale è stato un gran cuore. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Punto e a capo. Veniamo al Festival del Cinema di Cannes, che si concluderà questa sera. È stato presentato mercoledì il film Fuori concorso di Bernardo Bertolucci, Io e te, tratto dal romanzo omonimo di Niccolò Ammanniti. Racconta la storia d'amore accennata e non vissuta tra l'introverso Lorenzo, interpretato da Jacopo Olmo Antinori, e la sorellastra Olivia, interpretata da Thea Falco. Tutto questo nell'angusto spazio di una cantina. Sentiamo Bertolucci. Oh, mi era sembrato all'inizio un po' una scommessa di fare un film tutto in un luogo unico. È una scommessa perché sono abituato anche a così a grandi spazi, a grandi movimenti di macchina, su luoghi magari lontani ma molto vasti. Ecco, e allora la scommessa è anche quella di far diventare vasta questa cantina così piccola. E adesso sentiamo qual è la cinquina del Campiello. È sempre una sorpresa conoscere i nomi dei 5 scrittori che arriveranno in finale al Campiello. Le case editrici ovviamente spingono su alcuni loro autori, ma poi a decidere la cinquina è la giuria dei letterati, composta da 11 personalità del mondo della cultura. E la vera sorpresa arriva alla finale. Per il 1° settembre saranno 300 lettori a scegliere il vincitore del premio. Quest'anno in finale ci sono rappresentanti delle maggiori case editrici. I più votati: Carmine Abate, Mondadori, con una saga familiare ambientata in Calabria, e Francesca Melandri, Rizzoli, che indaga nella vita e nei sentimenti dei parenti dei detenuti. C'è poi Marco Missiroli, Guanda, uno scrittore nato con il Campiello, premiato nel 2006 per l'opera prima. Giovanni Montanaro Feltrinelli ci propone una storia emozionante, una donna considerata matta che scrive a Van Gogh, di cui è profondamente innamorata. Infine il sardo Marcello Fois, Einaudi, finalista anche allo Strega, con un romanzo che è una celebrazione della sua Sardegna. Per il Campiello opera prima, premiato Roberto Andò con Il trono vuoto, pubblicato da Bompiani. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Padova. È uscito giovedì in Italia, pubblicato da Corbaccio, Il ritorno del giovane principe, un proseguimento virtuale del Piccolo Principe, approvato dalla famiglia di Antoine de Saint-Exupéry. L'ha scritto l'argentino Alejandro Guillermo Remmers. Gli abbiamo chiesto se non ha usato troppo, facendo un sequel di un libro diventato una pietra miliare della letteratura. Io non lo sentì così. Io non ho mai sentito che le cose stessero così. Non ho pensato di osare. Il libro è un complemento spirituale, un prolungamento del messaggio. Ho voluto solo raccontare un'esperienza personale, non paragonarmi al Piccolo Principe. Sentivo l'esigenza di raccontare una storia con un lieto fine, quindi diverso da quello scritto da Saint-Exupéry. Del resto lo voleva anche lo stesso Saint-Exupéry, lo diceva in alcune lettere. Sperava che qualcun altro facesse in modo che il Piccolo Principe tornasse sulla terra. Lunedì è morto Robin Gibb, uno dei cantanti e fondatori del gruppo dei Bee Gees. Il cantante della band britannica aveva 62 anni ed era malato di cancro. Sentiamo Mario Luzzatto Fegiz, critico musicale del Corriere della Sera. I know you rise in the morning sun. quel periodo ha avuto i Beatles, ha avuto gli ABBA e anche noi abbiamo avuto i nostri bravi gruppi vocali. È un impatto sonoro incredibile che poi è stato esaltato e gestito con sapienza da un certo Robert Stigwood. Tra l'altro è uno dei loro più grandi successi, si chiama Tragedy, e se ci pensate bene la tragedia incombe davvero su questi campioni della polifonia, che furono poi la colonna sonora di periodi magici come La febbre del sabato sera, Grease. Questi quattro fratelli inglesi immigrati in Australia, appunto i Gibb, sono perseguitati dalla sfiga, se vogliamo, perché prima andarsene nell'88 è Andy, che non ha mai militato nel gruppo ma è stato sempre fortemente appoggiato dai fratelli che sono gli altri, Barry, Robin e Maurice. Andy muore a 30 anni per una malattia cardiovascolare innescata, stando alla dichiarazione dei fratelli, dall'abuso di droghe e di alcol. Poi nel 2003 muore prematuramente un elemento fondamentale del gruppo, che è Maurice, che è il fratello gemello di Robin. E adesso è toccato proprio a Robin, 62 anni, e Robin era una delle voci fondamentali del gruppo ed era, diciamo, l'artefice di quei falsetti incredibili che resero il loro stile unico e che ebbero anche molti imitatori in Italia. Se ne va un'epoca, se ne va un periodo, questo tipo di polifonia è praticamente scomparso. Beppe Carletti, fondatore e tastierista dei Nomadi, sarà Enrico V nel 47° corteo storico matildico di Quattro Castella nel Reggiano, previsto domani. La cantante lirica Elena Rossi invece avrà il ruolo di Matilde di Canossa. L'incasso andrà in beneficenza. La vicenda rievoca l'episodio avvenuto nel castello di Bianello nel 1111, quando Enrico V incoronò Matilde Gran Contessa Viceregina Vicaria d'Italia. Carletti commenta la sua partecipazione al microfono di Paolo Panceri. Mi hanno telefonato, mi hanno detto se accettavo di fare questa parte qua di Enrico V in questa celebrazione e ricorrenza di questa cosa matildica che è successa ormai 1000 anni fa, però mi è piaciuta molto anche perché non è una pagliacciata, una cosa veramente accaduta e mi piace, insomma, non diventerò mai un attore perché non mi interessa. Però mi piace tanto impersonare Enrico V e poi mi piace tanto perché è la mia terra, quindi partecipare vuol dire anche voler bene alla propria terra, alla propria storia e comunque tramandare alle giovani generazioni quello che è accaduto 1000 anni fa. Tra l'altro arriva purtroppo in un momento così abbastanza triste per la tua zona. Eh sì, è un momento un po' purtroppo particolare, insomma, io sono convintissimo anzi che la gente, la mia gente di cui io faccio parte, comunque reagirà in un modo forte, riuscirà a risollevare il tutto perché la laboriosità del popolo emiliano-romagnolo è riconosciuta e quindi credo che comunque riusciremo a risollevarci. Penso che sia più una cosa morale sicuramente che non passerà mai dalla testa di chi l'ha vissuta in prima persona e comunque da noi, che anche se io non ho avuto danni né niente, però sicuramente sono cose che fanno stare male, fanno soffrire, vedere gente che purtroppo è rimasta senza casomai i sudori di una vita per farsi una propria casa, ti trovi a un certo punto che devi dormire in una tenda. Questa è la cosa più tragica che ci possa essere. Punto e a capo. Lo sport con Londra 2012, sarà Valentina Vezzali la portabandiera azzurra nella cerimonia d'apertura, è stato deciso lunedì. In pedana andrà a caccia del quarto oro consecutivo dopo i trionfi di Sydney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008. Ma certo Valentina Vezzali il riconoscimento più bello in vista di Londra 2012 l'ha già vinto. Sarà la 38enne fiorettista jesina la portabandiera azzurra durante la cerimonia d'apertura del 27 luglio. Vittoria annunciata ma ora sancita dal CONI. Battuta la concorrenza di altre donne d'oro dello sport azzurro, dal mito della canoa Josefa Idem alla pallavolista Lo Bianco a Federica Pellegrini, fuori gioco causa calendario, visto che gareggerà proprio il primo giorno dei giochi. La Vezzali eredita il tricolore dal canoista Antonio Rossi, al Fiere Azzurro a Pechino, e riceverà la bandiera tricolore dalle mani del presidente Napolitano nell'incontro ufficiale di venerdì 22 giugno al Quirinale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Punto a Capo. Un ringraziamento da Simone Spezia che ha condotto questa puntata, Carmelo Lauricella che è stato in regia e Alessandra Tedesco che l'ha curata. Buona giornata.